Eccellenti avventurieri! Il vostro attacco di energia viaggia abbastanza rapido e potente da colpire in pieno il mago oscuro, spezzando il suo incantesimo. Colpo riuscito!